Ciao ragazze! Ciao! Ciao! Dai, vabbè, iniziamo! No, no, ragazzi! Buonasera, eccomi qua. Buonasera a tutte e tutti, tutto l'ascoltatore di questa meravigliosa Radio Wombat, l'unica radio libera e autogestita di Firenze. Questo ormai dovreste saperlo molto bene, probabilmente altrettanto bene di me, perciò non ve lo ripeterò ancora, ma quello che farò invece è ripetervi i contatti della radio, perché so che ormai ci conoscete bene, ma come fare a diffonderla a tutte le altre amiche e amici? Ebbene, ci trovate dal sito radiowombat.net, sul quale trovate tutti i podcast delle nuove puntate uscite di tutte le trasmissioni, ma anche le vecchie, perché no? Trovate anche il link per lo streaming, forse lo state già utilizzando, Radio Wombat. Vabbè, sì, insomma, lo trovate, /streaming. E, trovate anche però il modo di contattarci. Ebbene, abbiamo un pad, ovvero un foglio di testo condiviso, in cui potete scrivere tutto quello che volete, come un Word condiviso. Quindi non è una chat, ma è così, un foglio. Io lo vedrò in diretta e potrò rispondervi se volete, quindi fatevi sentire, mi raccomando. Questo l'ho detto, è importante, ma altra cosa fondamentale, se magari siete in macchina nell'area fiorentina, ma forse non solo, ci potete ascoltare dalle frequenze mediocri, le cosiddette, le AM sulle 13.59. Oggi puntatone importante, l'ultima ovviamente di quest'anno, già che siamo il 30 dicembre e ovviamente non è che trasmetterò anche domani, perciò questa è senza dubbio l'ultima e sono molto contenta di farla qui con voi in diretta. Sono veramente felice di essere di nuovo in regia e all'ascolto con voi. Come fare ad accedere a questo pad, a questo fantomatico e bizzarro, alquanto bizzarro, foglio di testo condiviso? Ebbene, non vi ho detto il link. Il link è direttawombat.vado.li. Andateci, andateci! Thank you. Ed eccomi allora che torno in voce ad accompagnarvi in questo lunedì un po' gelido, devo dire la verità. Allora, ridicevo, questa è l'ultima trasmissione dell'anno, l'ultima, scusate, puntata dell'anno per la mia trasmissione, ovvero Nervature. Infatti io sono Addu qui in voce con voi. Oggi una puntata importante perché, non lo so perché, però me la sento importante, quindi così cercherò di cullarvi con questo clamore anche a voi. Allora, vi rivelo subito l'argomento di quest'oggi. È un argomento specifico, ma che vi verrà raccontato dalla qui presente e non solo, ci saranno anche voci fuori campo, in modo invece molto sfaccettato da vari punti di vista. Allora, l'argomento di oggi è l'abete. Quale abete? L'abete rosso, ovvero il Picea abies. Allora, già abbiamo parlato di questa bella pianta, molto, molto bella pianta, qui su Nervature. In particolare 3 anni fa, all'incirca, un po' meno, ma soprattutto in realtà voi l'avete risentito ben 2 settimane fa, perché vi ho semplicemente rimandato una puntata vecchia, ma non a caso, ovvero era la puntata fatta con il piacevolissimo aiuto di Zazì e Sissi, in cui parlavamo degli alberi di Natale. Visto il periodo, ho voluto rimandarla stavolta un po' in anticipo rispetto al giorno di Natale, a differenza di come avevamo fatto a suo tempo, purtroppo. Quindi l'argomento della puntata era: ma sarà meglio scegliere, insomma, comprare un albero vero, quindi una pianta vera, un essere vivente, oppure sarà meglio comprare un albero finto, quindi di plastica o qualcosa del genere? Qual è meglio a livello ecologico, di impatto? Beh, era una domandona un po' impegnativa, nel senso che i calcoli sono sempre difficili da fare al riguardo, ma abbiamo cercato di darvi un po' una panoramica al riguardo. E perché avevamo parlato di abete rosso in quella puntata? Ebbene, perché le due specie che si usano come alberi di Natale qui da noi in Europa sono appunto l'abete rosso, Picea abies, e l'abete bianco, che invece è Abies alba. Oggi ho deciso di rispolverare una di queste due piante, l'abete rosso, detto anche peccio, tra l'altro Picea, peccio, viene da lì, e quindi vi racconto un po' di cose. Allora, per farvi un po' di spoiler subito così in apertura puntata, sentirete altre voci, in particolare di una raccoglitrice di erbe spontanee, nonché cuoca, e vabbè, la sentirete meglio dopo, tale Erika, che ci parlerà degli usi di questa pianta e anche di alcune curiosità in generale. Ci racconterà anche una bella ricettina, quindi occhio, occhio, visto il periodo di dolci, siccome una ricetta di biscotti potrebbe interessarvi. E poi sentirete invece un podcast di Stefano Mancuso, quindi biologo ormai di fama internazionale, se non di più, chissà se magari gli alieni lo conoscono. E quindi sentirete la sua voce che ci racconterà uno dei modi specifici di utilizzo del peccio di questa pianta. E la sua voce, vabbè, vi collerà molto meglio della mia, probabilmente è un ottimo divulgatore e in questo ci si può tranquillamente ispirare a lui. Poi, dopo di ciò, invece, sentirete altre voci che ho rubacchiato da un altro podcast che tratta della tempesta, anzi dell'uragano Vaia, che c'è stata nel 2018 in Italia. Proprio perché è un uragano che ha buttato giù un sacco di abeti rossi, appunto. Quindi ho, diciamo, estrapolato 2 parti che mi interessava farvi sentire per ricostruire un po' tutta la vicenda e poi, se ci riusciamo, perché come state capendo i contenuti sono tanti in questa puntata, comunque se ci riusciamo vi leggerò 1 o 2 brani riguardanti sempre questa pianta, un po' per alleggerire alla fine, rilassarsi a fine serata. Ovviamente non voglio ammorbarvi per 1 ora e mezzo con tutte queste parole, quindi vi manderei subito un primo pezzo, pezzo che si chiama Spruce. Spruce vuol dire appunto abete rosso in inglese, e ho scoperto esserci un sacco di canzoni che si chiamano così. Allora vi lascio un po' questa musica in sottofondo e iniziamo quindi ad addentrarci nell'argomento odierno, argomento odierno che vi ho già detto, anzi rivelato essere l'abete rosso. Beh, gli abeti un po' ce l'abbiamo già nel nostro immaginario, probabilmente sono quegli alberoni grandi e grossi, verdi scuro, che rimangono sempre molto seri e seriosi durante l'anno, proprio perché non perdono mai le foglie, quindi quel loro verde scuro rimane così tale anche in inverno, hanno quella forma conica che probabilmente conosciamo già, abbiamo già presente, ma anche se queste cose le conosciamo già, ridiciamole, perché no? Dunque, allora, abete rosso, il quale nome scientifico è Picea habies, come vi ho già detto, ma viene anche chiamato Picea excelsa, è un sinonimo, è un altro tipo, insomma, di classificazione, è stato chiamato così, ma è molto meno comune chiamato in questo modo. Dunque, è un albero molto grosso, un albero di prima grandezza, il che significa che può arrivare tranquillamente ai 50 metri, 30, 40, 50, insomma, a seconda sia dell'età sia anche delle condizioni nel quale vive. Il portamento, come vi ho detto, è piramidale, nel senso è come un cono, appunto, come proprio ci si immagina appunto gli alberini di Natale. Però è interessante invece sapere che a seconda dell'ambiente in cui lo si trova, quindi se è un ambiente più caldo o più freddo, la sua forma può cambiare un po'. Quindi dove è molto freddo e nevica tanto sarà più stretto e alto, cioè diciamo più stretto in generale, invece assume un portamento un po' più largo, un po' più ciccione dove fa più caldo, questo appunto dovuto alla neve, perché la neve quando cade sui rami appesantisce un sacco e quindi se i rami sono troppo lunghi va a finire che poi si spezzano sotto il peso della neve, quindi è un adattamento ambientale della pianta. Da dove viene questa pianta? Allora, il suo areale, ovvero la sua zona di origine, è tutta l'Europa centrale in generale, tutte le Alpi, anche i Pirenei, anche se un po' in parte minore, e anche tutta l'Europa invece est, quindi orientale, fino anche all'Asia centrale. Quindi ha un areale molto molto espanso, è un albero molto comune, ecco, in generale. In Italia, quindi in particolare, come vi ho detto, lo troviamo sulle Alpi, anche dalla Liguria proprio, però devo dire che si adatta molto meglio nelle Alpi centrali e nelle Alpi orientali, ancora meglio. E proprio lì trova un clima che lo favorisce, perché su quella parte delle Alpi c'è una piovosità durante tutto l'arco dell'anno più regolare, e quindi siccome è una pianta che soffre molto la siccità, invece in quella zona si ritrova a ricevere pioggia, quindi acqua, anche in estate, e questo gli piace molto. Ovviamente non gli piace nemmeno il caldo, visto che vi sto nominando tutte zone montane. Infatti normalmente lui vorrebbe stare tra i 1200 e i 1800 metri. In realtà poi lo troviamo in Italia, sì, soprattutto in Italia, anche tra i 600-800 metri. Ma perché? Perché ce l'abbiamo portato noi. Cioè, di suo, di naturale, lui non starebbe così basso. Ce l'abbiamo portato noi nell'arco degli ultimi secoli, Anche ci sono state delle azioni di rimboschimento proprio nel Novecento, all'inizio del Novecento, ce ne state numerosissime in Italia, e l'abete rosso è stato usato veramente tanto. Un esempio, per esempio, è sul Gran Sasso. Quindi in molte di queste aree dove è stato portato da noi, in realtà si è naturalizzato. Cioè significa che ormai si è ambientato, si è adattato, e quindi significa che riesce a riprodursi da solo. Quindi in autonomia è diventato spontaneo, ecco. Però si dice naturalizzato perché è spontaneo, ma da molto poco tempo, ecco, diciamo così. Un fattore però importante di cui vi accenno adesso, ma parleremo molto meglio dopo, è il fatto che, come vi dicevo, è una pianta da freddo. E siccome l'abbiamo messo noi in altitudini molto minori, come vi dicevo, 600-800 metri, e siccome il riscaldamento globale sta facendo dei, appunto, grossi cambiamenti sul nostro pianeta, in realtà è una pianta che si trova sempre peggio a vivere a basse altitudini. Preferisce stare molto più in quota, appunto, sempre di più preferisce stare in quota, proprio perché è sempre più caldo un po' ovunque. Altra cosa importante è una pianta della tipologia delle gimnosperme. Allora, io intanto qui cerco di rimettermi un po' di altra musichina in sottofondo, più per voi che per me, che immagino possa essere un po' noiosa altrimenti. Quindi è una gimnosperma, il che significa che è una pianta di, diciamo, genetica molto antica, non questa specie in particolare, però questa tipologia di piante esiste da tantissimo tempo, tantissimo, tantissimo, più di, fino a, sì, 300, di più, 350, qualcosa, milioni di anni fa, questa tipologia di piante esisteva già. È una cosa importante da sapere, perché vuol dire che è un po' la prima tipologia di piante di grossa stazza che appare sulla Terra. Ma per farvi capire meglio cosa significa, altre piante della tipologia un po' opposta, fra virgolette, diciamo due grosse categorie, sono le gimnosperme, di cui stiamo parlando ora, e le angiosperme. Le angiosperme sono la maggior parte delle piante a cui uno pensa di solito, quindi tutti i fiorellini di campo, bene, sono angiosperme. Tutti gli alberi, praticamente tutti, sto un po' generalizzando, tutti gli alberi decidui, quindi che perdono le foglie, sono angiosperme. Tutte le piante che hanno fiori appariscenti, più o meno, diciamo, sono angiosperme, quindi tutti gli alberi da frutto pure, tutte le piante da orto pure, insomma, quindi una grossa categoria. Allora, qui c'è diversi problemi con questo computer maledetto, che si è un attimino stoppato, forse era interessato anche lui a quello che stavo dicendo e vuole ascoltare me invece che mettere la musica, non so bene perché. Vabbè, ma comunque io cerco di andare avanti lo stesso. Allora, quindi, vi stavo dicendo, l'abete rosso, il peccio, è una gimnosperma. Quindi non vi voglio ammorbare, ma cosa significa nella pratica? Che non vedrete mai un fiore, nel senso un fiore colorato con dei petali grossi, spampolone incredibile, non lo vedrete mai. Ugualmente non vedrete mai un frutto su una pianta che è una gimnosperma. E altre caratteristiche importanti, che però non sono poi così tanto visibili, sono una struttura diversa del legno. Quindi le gimnosperme spesso hanno canali resiniferi, quindi dei canali dentro il legno, dentro il tronco, che appunto contengono resina, che di base è una sostanza di difesa, serve alla pianta per difendersi da mille miliardi, milioni di cose, insetti, eccetera. Infatti, ecco, le conifere, normalmente dette conifere, che appunto sono quelle con cui noi un po' vediamo e, diciamo, con cui noi ci figuriamo tutte le gimnosperme, in realtà poi ce ne sono tante altre piante, hanno sempre un sacco di resina. Il pino, l'abete, il cipresso, tutte questi tipi di piante hanno veramente tanta tanta resina. Niente, la situazione col computer è sempre peggio. Non posso nascondervi che qui la situazione sta diventando grave e purtroppo non è la prima volta che mi succede, ci sono vagamente abituata, quindi cercherò di rimediare in altro modo, però mi dovete dare un attimo di pazienza e di chiacchiere inutili in cui cercherò di collegare un altro dispositivo multimediale, maledettamente multimediale direi, con cui posso mandarvi musica. Nel frattempo cerco di sfruttare le mie purtroppo scarse capacità di multitasking e continuo a chiacchierare un po' con voi riguardo a questa pianta. Quindi abbiamo detto che è una gimnosperma e fin qui ci siamo. Andiamo avanti allora, ma cerchiamo di capire meglio che tipo di pianta è. Allora, è una sempreverde e questo già ve l'avevo detto, quindi cioè significa che non perde le foglie, vabbè, più o meno penso si sapesse un po' tutti. Le foglie, ecco, parliamo delle foglie, come sono ste foglie? Bene, allora, sono aghi in realtà, però anche questo probabilmente ce l'avete già presente, appunto se pensiamo a dei pini, a dei, appunto gli abeti, sono tutte piante che hanno degli aghi. E, vediamo un po' se parte... Eccoci, intanto abbiamo un sottofondo se non altro, aspettando che questo computer si riprenda, anche se dubito ce la farà, purtroppo. Dunque, quindi le foglie sono aghi, esattamente, quindi non hanno una lamina espansa, ma sono dei bastoncini, mettiamola così, dei piccoli bastoncini verdi, che sono molto importanti anche per riconoscere la pianta. Mi piace, come forse alcune di voi già sapranno, mi piace molto parlare di come si riconoscono le piante, proprio perché che me ne frega di studiare una pianta se poi quando la vedo non so che è quella lì, o quando la cerco non la so trovare. Bene, quindi gli aghi, dicevo, sono molto importanti per riconoscere l'abete e hanno sezione quadrangolare. Ecco, quindi uno dei modi per riconoscere le conifere le une dalle altre è vedere la sezione dell'ago. Quindi immaginatevi, o potete anche farlo se volete, di prendere un ago e tagliarlo. Lo tagliate e vedete che sezione ha. Quindi potrebbe essere piatta, tonda, cilindrica, potrebbe essere a semicerchio, per esempio alcuni pini sono così. In questo caso è quadrangolare, quindi diciamo un po' spigolosa. Poi gli aghi sono appuntiti, quindi se toccate in cima sentite un po' leggermente pungere, e si inseriscono sui rametti in modo radiale. Significa che c'è il ramettino di legno, il pezzettino di legno, e questi aghi partono un po' in tutte le direzioni. Ecco, per semplificare vuol dire un po' questo. E quindi avete questo rametto che è completamente rivestito da aghi, appunto. C'è allora si chiama pulvino, quella specie di picciolo che tiene su l'ago sopra il rametto. Quindi praticamente c'è il rametto, poi questo pulvino che è un pezzettino di, non so, legno molto molto fine, che tiene su appunto l'ago. Questo è importante da sapere perché anche le gimnosperme cambiano le foglie, anche se non fanno come le decidue che, pum, di botto le perdono tutte insieme e rimangono solo così spoglie tutto l'inverno, ma c'è un ricambio molto più ciclico. Quindi succede anche appunto all'abete rosso che perda gli aghi, e quando li perde succede che nel rametto rimangono questi pulvini attaccati, e quindi per noi è importante saperlo per il riconoscimento, perché se si va a toccare, a sentire com'è al tatto un rametto senza aghi, si sentirà che è molto rugoso proprio a causa di questi tanti puntini, ecco, legnosi. Che vi stavo dicendo? Ecco, passiamo invece ai fiori, che non sono fiori in questo caso, comunque agli organi riproduttivi della pianta. Le conifere, a differenza di invece delle latifoglie, come vi dicevo, no? Tutte le piante da frutto, da fiore, eccetera, non hanno propriamente dei fiori, ma si chiamano degli strobili, sarebbero le pigne, quelle che noi comunemente chiamiamo pigne, no? Per il pino ce l'abbiamo ben presente probabilmente, le pigne dei pinoli, no? Ebbene, quindi c'è sempre una pigna maschile e una pigna femminile. Quelle femminili sono quelle che poi diventano, appunto, per esempio la pigna dei pinoli, quindi diventano molto grosse, e invece quelle maschili di solito rimangono molto piccoline, a volte non diventano nemmeno legnose. Quindi è un po' strano chiamarle pigne, ma insomma vabbè. Quindi quelle appunto le pigne femminili, scusate, hanno una particolarità, ovvero che nascono e sono erette, quindi puntano, diciamo, verso l'alto, e una volta che invece maturano cambiano colore, quindi prima sono rossi, poi cambiano colore in verdi o verde e marrone e si piegano verso il basso. Quindi quando sono mature sono piegate verso il basso. Quando sono mature, cascano dalla pianta, semplicemente. Questa è una differenza invece rispetto ad altre conifere, perché in alcuni casi si sfogliano le pigne, quindi casca una scaglia alla volta, ecco, diciamo così, e rimane uno stecchettino, che era quello che teneva su tutta la pigna, sulla pianta. Invece no, in questo caso casca proprio tutta. Invece i coni maschili, quindi queste specie di pigne piccole maschile, sono appunto piccole, molto più piccole, a differenza delle femminili che sono sui 10-15 cm, queste maschili sono su circa un centimetro, sono più gialli o verdi e stanno alla base dei coni femminili. Questa è un po' la differenza fra i due. Per quanto riguarda invece altre parti della pianta, vediamo che la corteccia ha un colore un po' rossastro, e per questo infatti viene chiamato abete rosso, perché a vederlo soprattutto da lontano si vede che il colore è decisamente più rosso rispetto al tronco di tanti altri alberi, e col tempo però si rompe un po' in scaglie la corteccia. Altra cosa importante da sapere è che le radici sono molto superficiali di questa pianta. Di questo di nuovo ne parleremo dopo, quando parleremo dell'uragano Vaia, capirete magari come mai, per ovvie ragioni. E poi ultime invece informazioni carine, utili. Il nome della pianta Picea deriva dal nome latino pix, che vuol dire resina, quindi come vi dicevo le conifere hanno tanta resina e soprattutto ecco, in questo caso è proprio un esempio molto buono, proprio perché addirittura questa resina si raccoglie, ci si fanno vernici, ci si fanno unguenti, addirittura la trementina, insomma un sacco di roba. Ma quest'albero è utilissimo per tante altre ragioni, ovvero il fatto che viene usato un sacco anche per il legname, quindi viene proprio coltivato appunto in modo intensivo anche in alcuni casi, proprio per raccoglierlo, tagliarlo alla fine, tagliarlo e raccoglierlo e usarlo come legno. Questo legno però è anche molto particolare. Perché? Perché si tratta proprio di questa pianta da cui deriva il cosiddetto legno di risonanza. Di questo ne parleremo molto meglio dopo, anzi sentirete parlare non me ma Mancuso a riguardo, proprio perché con il legno di abete, in realtà di una specie, di una, scusate, varietà specifica di abete, ovvero il Fissilis, Fissilis, non lo so, ci si fanno e ci si facevano proprio i violini, viole, violini, violoncelli, pianoforti, insomma tutti strumenti a corda, strumenti che dovevano appunto risuonare. Didn't realize it. E tutte queste musiche che avete sentito finora, ora a parte la prima che era più balcanica, tutte queste invece ve le sto passando proprio perché si chiamano Spruce, come vi ho già accennato prima, quindi si chiamano abete rosso, questa cosa è fantastica. Ma infatti mi pare proprio di capire che l'abete rosso sia un po' una pianta simbolo. Ora, questa è una cosa che abbiamo già toccato un sacco di volte in modo trasversale qui su Nervature, cioè che non molte canzoni e musiche e album che siano parlano di piante, cioè non è propriamente un argomento fra le prime scelte, ecco, mettiamola così. Io tante volte, anche solo per curiosità, divertimento, vado a cercare, vediamo se ci sono canzoni che parlano di, tagete, e non si trova mai una ceppa. Invece, per questa volta mi è andata veramente bene, quindi l'abete rosso devo dire che è un grande favorito, forse perché ce n'è tanto negli Stati Uniti, nelle parti fredde, sinceramente non lo so se è per questo. Fatto sta che appunto c'è un sacco di canzoni che si chiamano proprio Spruce. E grazie davvero tanto per i commenti, i saluti sul pad, vi ringrazio davvero davvero tanto per essere qui all'ascolto. Purtroppo non è tra le giornate più fortunate, visto questi problemi tecnici dell'arcaicità di questi mezzi tecnologici, appunto. Ma non ci fermiamo nonostante le difficoltà tecniche, e quindi niente, sto riuscendo a trovare magicamente modi per farvi comunque sentire i contenuti che ho preparato qui per voi. E allora, come avevo già accennato prima, passiamo al primo contenuto, ovvero quello della cara Erika. Non dico niente, tanto si dice tutto nell'audio, si presenta lì, e quindi buon ascolto. E invece no. Sembrava troppo bello che partisse subito, no? Se già ecco, sempre riguardo a questi temi delle piante spontanee. Allora, partiamo da capo, eccoci qua. Ciao Erika, grazie per esserti prestata questa piccola intervista. Allora, ti presento innanzitutto, sei una raccoglitrice e venditrice di erbe e piante spontanee, è la tua grande passione. Anche tisane e nel frattempo organizzi anche corsi e passeggiate sempre riguardo a questi temi delle piante spontanee, quindi come raccoglierle, trattarle, i loro usi, eccetera, eccetera. Tutto ciò tramite i tuoi due progetti, che sono gli Orsini, che svolgi nella zona di Bergamo, nella Val Seriana, e anche Selvaggio Alpino, in collaborazione con un'altra tua collega, nella Val d'Aosta. Ti ho chiamato proprio perché ti chiedo un piccolo contributo riguardo al tema della puntata odierna, ovvero, come già i nostri ascoltatori e ascoltatrici hanno capito, che riguarda quindi il peccio, l'abete rosso, quindi picea habeas. E quindi hai un sacco di informazioni e competenze da condividere con noi. Inizierei però a chiederti innanzitutto riguardo alla raccolta, come te raccogli questa pianta, quali parti della pianta e come consigli di farlo. Ok, ciao a tutti e a tutte, grazie Adele per l'invito. Allora, l'abete rosso è una delle mie piante preferite, è una delle piante che raccolgo più spesso. Diciamo che storicamente abbiamo una grande tradizione in zona appunto prealpina alpina dell'utilizzo dell'abete rosso, potenzialmente una pianta commestibile, poi in realtà, e magari approfondiamo dopo, però le parti che andiamo a raccogliere maggiormente sono le foglie adulte, quindi gli aghi, le gemme in primavera, che sono quel ciuffetto verde che troviamo di solito verso aprile-maggio, e poi possiamo raccogliere i fiori maschili, che sono questi piccoli conetti rossi e poi gialli, e le piccole pigne, quando sono ancora, diciamo, acerbe. Queste sono le parti che raccogliamo di più in assoluto. Per quanto riguarda la raccolta, e questa è una cosa che in realtà vale per tutte le piante, in questa epoca, diciamo, storica climatica è molto importante avere un approccio conservativo alla raccolta, per cui cerchiamo di raccogliere quello che siamo sicuri e sicure di utilizzare e con sempre una modalità che sia rispettosa per la pianta anche in termini di quantità. In particolare per quanto riguarda l'abete rosso, i fiori appunto maschili, le piccole pigne e le gemme io le raccolgo direttamente da pianta viva, mettiamola così. Mentre invece per quanto riguarda gli aghi adulti, io evito di andare con le forbici a tagliare i rametti perché è una raccolta un po' troppo invasiva. So che poi avete parlato, parlerete del bostrico, quindi anche questo è un motivo per cui evito di andare con le forbici a tagliare. Io vado nei boschi a raccogliere, diciamo, proprio le fronde di abete rosso quando ci sono i tagli da parte dei boscaioli, che si portano via di solito tutta la parte del tronco e dei rami più grossi e lasciano le fronde. Quindi nell'arco di una settimana io vado con delle belle borse capienti e mi raccolgo tutte queste fronde di abete rosso che sono già state tagliate. Cerco di non farlo nei giorni in cui ha piovuto e così, ecco, quindi la raccolta cerchiamo di farla in modo conservativo. Ok, perfetto. Scusa, faccio una precisazione perché è andato per un secondo via la connessione, non si è sentito. Hai detto quindi che la pianta si potrebbe raccogliere e mangiare interamente, giusto, nel suo complesso, però di solito si usano le parti invece di cui hai parlato nello specifico. Sì, nel senso che noi storicamente, anche proprio a livello di utilizzi in caso di urgenza alimentare, quindi carestia, piuttosto che proprio bisogno di nutrirsi, abbiamo una tradizione di utilizzo della pianta nella sua interezza, quindi anche le parti che noi oggi magari non utilizziamo più, come la corteccia interna. Ad esempio, la corteccia interna dell'abete rosso, che ad oggi io stessa non ho mai raccolto, è una corteccia che un tempo veniva utilizzata per fare il pane. Quindi veniva raccolta, essiccata, macinata, resa in polvere, poi integrata con altri cereali, come la segale, perché storicamente si coltivava la segale, l'orzo e il grano, nelle zone dove appunto prealpine, e veniva poi macinata e integrata nei panificati, proprio per dare un po' di sostanza. Oggi viene fatto pochissimo, anche perché abbiamo accesso ovviamente a risorse alimentari differenti, ma si può fare. Quindi per quello io prima all'inizio dicevo, in realtà è una pianta interamente commestibile. Quindi la corteccia si può mangiare, la resina è un'altra parte che ancora oggi è molto utilizzata, in realtà viene utilizzata più da un punto di vista erboristico, ma un tempo veniva utilizzata anche da un punto di vista alimentare, quindi le parti diciamo più balsamiche sono liposolubili, quindi venivano fatte sciogliere o in un olio vegetale o in un burro e poi veniva utilizzata in cucina. Invece le parti che noi oggi raccogliamo un po' di più da un punto di vista alimentare, quelle che dicevo prima, quindi i fiori maschili e quelli femminili, possono essere ad esempio messi sotto miele o canditi e messi sotto zucchero perché sono molto balsamici, anche messi sotto aceto perché hanno questo gusto che proprio aromatizza, cioè questo rilascio dei terpeni che sono gli oli essenziali un po' più balsamici e quindi ecco danno questo gusto fresco. E invece la Certo. parte diciamo secondo me un po' più utilizzata sono o le gemme giovani, come dicevo prima, la parte quei ciuffetti verde, diciamo verde molto chiaro che troviamo all'inizio della primavera, e gli aghi adulti. Per quanto riguarda le gemme, che sono la parte appunto che raccogliamo in primavera, andiamo a utilizzarle anche semplicemente fresche, hanno questo gusto direttamente dall'albero, hanno questo gusto particolare perché sono citriche, quindi ricordano molto il limone, ma anche hanno una parte diciamo un po' grassa, data dalla resina. E quindi sembra di assaggiare qualcosa che riguarda proprio gli agrumi, sono molto buone, quindi le possiamo mangiare così, ci possiamo fare un pesto, magari mescolandole con altre piante, però ad esempio un pesto di gemme di abete e mandorle che hanno un gusto un po' dolce, ci sta molto bene. Le possiamo utilizzare all'interno dei dolci, quindi fresche, tritate all'interno di una torta. Proprio semplice, magari allo yogurt piuttosto che all'interno di biscotti, stanno molto bene. Le possiamo sempre tritare e utilizzare, ad esempio, con un formaggio fresco, proprio perché questa parte grassa si abbina bene alla parte del formaggio. E in realtà hanno tantissimi utilizzi perché anche messi sotto aceto, anche loro piuttosto che fermentati in salamoia. Sono molto molto buoni e forse vabbè, forse una ricetta tra le più golose è quella di pucciarli nel cioccolato fondente sciolto e poi lasciarli raffreddare, insomma, sono interessanti. E poi ci sono persone che ad esempio li utilizzano all'interno dei risotti proprio per aromatizzarli. È curioso il fatto che rispetto agli aghi adulti le gemme abbiano questa parte citrica molto forte, che in realtà poi andremo a scoprire, che è una componente proprio sia aromatica, ma anche proprio a livello di proprietà data dalla vitamina C. L'abete rosso è un grande dispensatore di vitamina C, e quindi mangiarsi le gemme anche fresche è un'ottima risorsa per l'inverno. Veramente interessante, avrei dovuto prendere appunti proprio in modo compulsivo perché sembrerebbe veramente che questi utilizzi sono plurimi. Fantastico. A proposito degli utilizzi, quindi, ha già accennato qualcheduno degli usi tradizionali riguardo alla corteccia, l'impasto per il pane, se te ne viene in mente altri. Sì, allora, per quanto riguarda, allora dico una cosa sugli aghi adulti, poi ci collego una parte sugli usi tradizionali, se me lo Vai, concedi. vai. Allora, per quanto riguarda gli aghi adulti, prima dicevo che io li raccolgo appunto da fronde di piante già tagliate, proprio per non avere una raccolta invasiva. In realtà io li raccolgo solitamente per fare due cose. La prima è mi piace farci degli infusi e poi berli e poi magari aromatizzarci dei piatti. Non so, mi viene in mente sempre questo famoso risotto, a me piace farlo anche a volte mettendoci gli aghi nel brodo, perché rilascia questa parte balsamica. In realtà un uso tradizionale degli aghi adulti era quello di renderli in polvere, sia da un punto, più da un punto di vista erboristico, mettiamola così. Quindi io quando ho iniziato a raccogliere l'abete rosso, tornavo a casa con queste fronde e le mettevo a seccare, però mi facevano un po' disperare, nel senso che quando le seccavo sui telai, poi alla fine non seccavano mai, quindi rimanevano lì e cadevano tutte nei buchetti dei telai. E quindi ho provato in esticatore, da poco avevo preso l'esticatore, quindi ho provato a metterli. Ecco, diventavano tutti gialli. perché l'abete rosso è proprio una pianta che non tollera il caldo nemmeno che va bene per l'essiccazione delle officinali. E quindi a un certo punto ho trovato questa tecnica, insomma, che sembra una grande scoperta, poi magari gli ascoltatori e le ascoltatrici ci faranno una risata. Praticamente le ho dimenticate in un cesto, ovviamente coperte con un canovaccio, e a un certo punto dopo 3 settimane, un mese, cosa succede? Che questi rametti cominciano a perdere gli aghi e si depositano tutti sul fondo, a quel punto vuol dire che sono secchi, rimangono verdi, di un verde molto molto bello, e quindi poi io li conservo in un barattolo e li metto nella mia dispensa delle erbe. Una volta che decido di fare la polvere, la faccio qualche giorno prima, in modo che poi non si ossidi troppo, e io li polverizzo con un macinaerbe, e la polvere la utilizzo principalmente sempre in ambito culinario, e mi piace tantissimo per aromatizzare il burro. Quindi faccio sciogliere il burro, poi si può fare anche con un burro vegetale, se c'è, insomma, preferenze vegane, lo faccio sciogliere, quando è sciolto ci metto la polvere in una bella quantità e poi lo metto in uno stampino e lo faccio raffreddare, e diventa questo burro verde, super resinoso, super aromatico, molto molto buono. E altrimenti ci faccio un sale, sempre con la polvere di abete rosso, che anche quello viene molto aromatico. E in realtà tutte queste ricettine ovviamente sono più sull'ambito culinario, ma noi veniamo sempre da un uso tradizionale delle piante selvatiche, dove non c'era molta differenza tra faccio questa cosa perché me la devo mangiare o faccio questa cosa perché mi fa bene. Cioè abbiamo sì la tradizione alimentare, sì la tradizione erboristica, ma parliamo soprattutto poi di qualcosa di nutraceutico, quindi che ci nutre ma ci cura anche. E in questo caso usare le piante comunque selvatiche o in generale officinali come condimenti aiutiamo, comunque supportiamo il nostro corpo nel benessere. Certo, mi piace molto questa visione olistica, diciamo, dell'utilizzo delle piante, mi sembra decisamente calzante. Tra l'altro, ora un passo mi viene in mente, io che non... Come sai, ho interpellato te perché non sono assolutamente esperta degli utilizzi delle piante, purtroppo non ancora, però tutte le volte sorrido quando leggo proprietà di una pianta, una qualsiasi, e ce n'ha milioni, diciamo, vabbè, serve a tutto, questa pianta serve a tutto. E invece ultimamente ho ragionato che forse è proprio quello il punto, cioè le piante si riescono a usare, vabbè, a parte si usano davvero ancora oggi per praticamente tutti i farmaci, moltissimi farmaci e principi attivi esistenti oggi, però funzionano, venivano usate prima in quanto proprio pezzi di pianta in sé, magari non estratto di appunto principio attivo, proprio perché fa bene a tante cose, e quindi siccome il nostro corpo è qualcosa di vivente e in quanto tale estremamente complesso dal punto di vista chimico, anche psicologico, qualsiasi cosa, servono le piante proprio in questa concezione qui. Non so se sono riuscita bene a spiegarmi, ma siccome fanno bene a questo, quello, quell'altro e quell'altro ancora, allora davvero riescono a curarmi. Non è un utilizzo puntuale, ma più, diciamo, chiamiamolo olistico. Ma io sono assolutamente d'accordo, nel senso che la nostra complessità è anche la complessità delle piante. Ragionare in termini di principio attivo è molto riduttivo. Noi stiamo ragionando, cioè ragionare in termini di principio attivo vuol dire identificare una pianta unicamente con una sostanza. Una pianta è un essere vivente che ha la sua complessità tanto quanto ce l'abbiamo noi. Quindi sì, l'abete rossa avrà sicuramente questo principio attivo, quest'altro, quest'altro, quest'altro, ma in realtà l'abete rosso ha una sua complessità che interagisce con la nostra complessità, per cui ragionare, secondo me, in termini di principio attivo è molto riduttivo, anche se comunque parzialmente utile. Trovo esatto. Che appunto sia molto più integrato ragionare in termini di complessità. E poi è bello che, è vero, le piante hanno magari alcune piante hanno principi attivi simili, però in realtà sono completamente diverse, per cui l'abete rosso, il pino, il larice condividono sicuramente dei principi attivi, ma in realtà sono piante completamente diverse. Certo. Ok, Se ti viene in mente altri utilizzi, non magari troppo tradizionali, ma che vengono fatti oggi, anche se va bene, ne hai già detti tanti, ma per completare. Sì, allora, da un punto di vista, diciamo, invece un po' più appunto delle proprietà, l'abete rosso ci aiuta molto, nel senso che è vero, appunto, come dicevo prima, è una pianta ricchissima, soprattutto nelle gemme di vitamina C, ma non solo, nel senso che le gemme sono una parte che concentra la vitamina C, un po' di principi attivi balsamici, non tantissimi, proprio perché comunque sono concentrati di più negli aghi adulti. Ma aiuta molto per le infezioni, ad esempio, legate alle vie urinarie. Quindi, ad esempio, io secco le gemme e le inserisco, ad esempio, in una tisana per le vie urinarie, con il lampone, altre piante. E poi c'è tutta la parte invece un po' più balsamica, per cui lo sciroppo, ad esempio, fatto con le pigne giovani, ancora ricche di resina, un po' verdi. Quindi alternando pigne e zucchero come si fa anche col pino mugo, oppure pigne e miele si può fare, è ottimo. Uno degli utilizzi, secondo me, più carini e più curiosi, magari non così tradizionale, anche se probabilmente lo facevano, è l'aceto lito. Quindi di utilizzare sia le gemme ma anche gli aghi adulti all'interno di un aceto. Quindi macerati in aceto, io consiglio di utilizzare un aceto crudo, buono o di vino o di mele, quindi non pastorizzato per conservare anche tutta la comunità, diciamo, dei batteri buoni. E semplicemente si mette a macerare quello che si preferisce, o le gemme, o appunto gli aghi adulti, eventualmente anche le pigne, vengono coperte dall'aceto, si lasciano macerare circa un mese e poi viene filtrato. Ovviamente, a differenza degli oleliti, va tappato, altrimenti l'aceto evapora. E cosa succede? Che l'aceto estrae tutte, un po' di proprietà e un po' di principi attivi della pianta. E quell'aceto si può utilizzare sia come condimento, quindi torniamo al nutraceutico, oppure si può utilizzare in realtà anche proprio un po' come un rimedio per prevenire o per gli stati influenzali iniziali. E questa è una cosa carina. Poi c'è tutta una tradizione erboristica più dei paesi anglosassoni che, oltre all'aceto, fa anche una macerazione in miele, quindi aceto più miele, si chiamano Oxymel, e lì qui andiamo proprio un po' più a completare l'aspetto balsamico anche sulle difese immunitarie. Un'altra cosa carina che si fa con l'abete rosso, che mi è venuta in mente adesso, è usare le pigne per fare un lievito per il pane. Le pigne, avendo questa parte di resina, in realtà sono molto ricche di lieviti, quindi si possono raccogliere quando sono verdi, abbinare magari alla raccolta di alcuni fiori, che anche questi sono molto ricchi di lieviti, e io di solito faccio così. Raccolgo le pigne, raccolgo i fiori, le metto in un vaso di vetro, le copro con un'acqua di fonte il più possibile, diciamo, pulita, e ci metto un cucchiaino di miele. E praticamente che cosa succede? Che cioè, i lieviti presenti sui fiori e sulle pigne praticamente vanno a mangiarsi gli zuccheri del miele, quindi comincia la fermentazione dell'acqua. Ovviamente lo lascio leggermente aperto il vasetto, lo chiudo proprio, solo magari lo tappo, ma senza stringere il tappo. E dopo 2 o 3 giorni vedo che ci sono delle bollicine in superficie, ogni tanto lo mescolo, e quando cominciano ad esserci un po' più di bolle, massimo 3-4 giorni, praticamente uso quell'acqua per far partire la fermentazione del pane. E è molto interessante. Sì, veramente molto interessante. Davvero dimenticato. Ritornare a processi che più naturali non si può, come dire, come quelli della fermentazione, certo. Va bene, allora, grazie veramente tanto. Direi di concludere con, se hai, diciamo, delle curiosità, qualcosa che ti viene in mente, anche se ci hai già detto quella della tua storia per l'essiccazione. E poi magari ci lasci una ricettina di cucina completa, appunto, ne hai già detto un sacco, ma magari se ce l'hai con delle dosi, qualcosa di riproducibile anche a casa. Allora, per quanto riguarda le curiosità, vabbè, mi vengono in mente, non tanto magari legate alla mia esperienza, però dico due cose più tradizionali sulle su questa pianta. Vabbè, questa è una pianta che veniva e viene ancora utilizzata, ad esempio, per il legno di risonanza per i violini. Quindi c'è questo aspetto molto, molto curioso per cui veniva proprio selezionata e venivano selezionati alberi in particolare. Un'altra cosa curiosa molto legata a un ambiente alpino è che le fronde dell'abete rosso venivano utilizzate dai malgari, quindi dalle persone che portavano le vacche sui pascoli alpini, raccoglievano questi rami di rametti, diciamo, di abete rosso, li stendevano sopra i secchi e li utilizzavano per filtrare il latte. E in realtà ci sono diverse piante che venivano utilizzate per questo, una era appunto il peccio perché poi era molto presente. E, ecco, questa è una cosa che mi piace molto da dire. E, per quanto riguarda la ricetta, allora ne darei una semplice darei la ricetta di biscotti alle gemme appunto di abete rosso. Vi do anche le dosi. Allora, 330 grammi di farina. Allora, non ho specificato il tipo di farina, secondo me vengono molto bene o con una farina integrale o se mescolate anche un po' di farina di segale. A me piace molto ragionare anche in cucina un po' per habitat, quindi mi piace abbinare, insomma, piante che magari, ma anche coltivate, spontanee, che però condividono certi habitat. Motivo per cui poi ci sono 200 grammi di burro, che non è una pianta, ma che, insomma, va bene. I vegani e le vegane all'ascolto mi perdoneranno, si può usare anche il burro, insomma, la margarina assolutamente. Poi ho messo lo zucchero, 100 grammi, può essere sostituito anche con del miele, eventualmente magari un pochino meno. Mezza bustina di lievito, va bene cremor tartaro, va bene bicarbonato, quello che utilizzate, e una bella manciata consistente di gemme di abete rosso fresche. Quindi questa ricetta è una ricetta primaverile. Io taglio il burro a tocchetti, lo lascio a temperatura ambiente, intanto in modo che si ammorbidisca, trito bene le gemme dell'abete e le mescolo poi con questo burro che si è un pochino ammorbidito, lo lascio un pochino lì e poi aggiungo tutti gli altri ingredienti, quindi zucchero, farina, lievito, impasto e poi lo metto in frigo un'oretta in modo che si risolidifichi. E poi faccio questi biscotti proprio stendendo la pasta e facendo con le formine oppure tagliandola a quadrotti come preferite e li cuocio in forno a 150 gradi per circa un quarto d'ora. E poi dipende molto dal tipo di forno, però ecco vi accorgete poi quando sono pronti. Quando li tolgo sono ancora morbidini, ma poi come le più classiche trolle anche delle crostate si rassodano. Ecco, direi Perfetto, grazie, mi è questo. venuta l'acquolina in bocca. Sembra veramente una ricettina interessante. Ti ringrazio davvero un sacco, Erika, fantastica, un sacco di informazioni che proprio non mi sarei nemmeno aspettata. E infatti magari ci risentiremo prossime volte, ti continuerò magari a sfruttare il tuo sapere se me lo permetti. Grazie davvero di esserti prestata a dare voce anche te a Radio Wombat e ci risentiamo presto. Grazie a te, a presto. Se te parlava de bon matí al portal, mentre da sola speravem, ja els carros veien passar. Si set que no veus l'estaca, on estem tots lligats, si nos podrem dispersar, mai no podrem caminar. Si estirem tots, el dia caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, tomba, tomba, ben corcada, Déu sé ja. Si tu l'estires, tire sfor per chi io restiro fuor per già. Segur che tomba, tomba, tomba, yes potremo libera. Però si se fa mottenzia, le smanze van a scucciar, di quella forza sa manva, e il san peis mescla. Ben c'è il secca sta podrida, presche si zet costa tan, ca con la forza m'oblida, tore ma dirà teu can. Sia stirem tot seria ancora, i morte te no portura, segur che tomba, tomba, tomba. Per chi io restiro for per già, segur che tomba, tomba, tomba, yes potremo arrivare. La visise già no diures, marven questa dal portal, e chi s'accapa qui nindre, io sono dal portal. Quando passe la nostra aires, estire il cor per cantar, al dare cantan si sen, ludare qua va insegnar. Si astire in tosse le ancora, i mole te no portura, segur che tomba, tomba, tomba. Cada deu se già, si tu restire for per chi, io restiro for per già, segur che tomba, tomba, tomba, yes potremo liberar. E allora sì, abbiamo sentito insieme l'intervista a Erika, spero che abbiate apprezzato quanto me, che veramente mi è sembrata un angelo che mi portava queste grandi informazioni, a me davvero molto care, e, davvero davvero brava. Allora io vi manderei, ho fatto questo piccolo stacco musicale direi più che dovuto, vi manderei allora al prossimo contributo, cioè al prossimo così rubacchiamento a destra e a manca, perché come vi dicevo vi volevo rimandare questo podcast di Stefano Mancuso, biologo appunto come dicevo a inizio puntata, di fama ormai internazionale, che è stato professore, anzi è ancora professore a biologia qui a Firenze, biologia vegetale in particolare, ma si occupa tanto di segnali elettrici, di quella che lui sostiene essere intelligenza delle piante, e un sacco veramente di argomenti direi piuttosto all'avanguardia comunque anche nell'ambito della ricerca. In quanto ricercatore è anche molto criticato, però pregi e difetti, ecco come dire, perché si sostiene che non è più, diciamo, sempre accurato scientificamente in quello che dice. Infatti è, a mio parere, più che uno scienziato, ormai è un divulgatore, ma questa da parte mia non è un'offesa, perché fare divulgazione è molto difficile e secondo me molto importante anche. E quindi forse anche per questo che insomma fa qualche scivolone a volte. Comunque, in questo caso, questo podcast che si chiama, come si chiama? Ah sì, Di Sana Pianta, io l'ho proprio rubato una puntata praticamente intera. Lui ci racconta, come vi dicevo, dell'utilizzo molto specifico dell'abete rosso come legno per fare i violini. Vi racconterà decisamente meglio la sua voce, quindi lo faccio parlare, basta che magari, ecco, interrompo la musica sotto, se no non capite niente. A tra poco. Oggi vi racconterò la storia dell'albero più musicale. Questo racconto parte con una tempesta. Quella tempesta che abbiamo imparato a conoscere come tempesta Vaia. Fu una tempesta di vento e pioggia che investì ampie zone delle Alpi orientali fra il 20 e il 30 ottobre del 2018. In quell'occasione si registrarono venti di velocità anche superiore ai 200 km orari e un numero spaventoso di alberi in quell'occasione vennero schiantati. Decine di migliaia di ettari scomparvero. Ora, è bene ricordare che quando si parla di danni alle foreste, di solito si pensa agli incendi. In realtà, perlomeno negli ultimi decenni, il vento, almeno in Europa, è la principale avversità contro la quale devono combattere gli alberi. Oltre il 50% dei danni subiti dai boschi europei sono dovuti al vento. Non agli incendi, che rappresentano soltanto il 16% dei danni, o neanche ai patogeni, agli insetti, ma al semplice vento. È così che ogni anno si perdono enormi superfici di foresta. Dal 1950 ad oggi, i danni da vento in Europa sono in continuo aumento. Dal 1970 al 2010 sono raddoppiati, passando da 50 milioni a 100 milioni di metri cubi di legname perso. Purtroppo non abbiamo il numero di alberi perché quantifichiamo sempre gli alberi come legname. È uno dei problemi della nostra visione distorta della natura, per cui gli esseri viventi come gli alberi per noi sono soltanto risorse. Ora, sapete cosa vuol dire perdere questa enorme quantità di alberi per il nostro pianeta? Vuol dire che lì dove avvengono questi eventi, si verifica una riduzione di almeno il 30% nella capacità di assorbire anidride carbonica, con le conseguenze che ormai ben conosciamo che riguardano il riscaldamento globale del pianeta. Ma non finisce qui. Le conseguenze di questi eventi catastrofici non sono soltanto drammatiche per ciò che significano all'ambiente o al paesaggio, che subiscono delle vere e proprie metamorfosi dalle quali si riprenderanno soltanto dopo secoli. Innescano inoltre una serie di catene, di cause e di effetti che la nostra immaginazione fa fatica ad anticipare senza l'aiuto dell'esperienza. Non ci credete? Beh, a danneggiare gravemente i boschi di abete rossi del Trentino furono venti di intensità mai misurata prima, che soffiarono sul Triveneto a causa di un'estate molto più calda della media, che provocò un riscaldamento delle acque del Mediterraneo con un conseguente minimo barometrico. Questo provocò una straordinaria spostamento di masse d'aria con venti che raggiunsero velocità ben oltre i 200 km orari, che tirarono giù un'enorme quantità, milioni di alberi, e fra questi c'era anche gli alberi di un bosco che aveva fatto la storia, di un bosco leggendario. Il bosco di abeti rossi, di cui da prima ancora di Stradivari si sceglievano i legni per costruire le tavole armoniche dei grandi strumenti musicali. Così si disperde anidride carbonica nell'atmosfera e nello stesso tempo scompaiono alberi con cui da sempre si fanno i grandi violini. Ora, gli strumenti musicali, per come la vedo io, sono una delle cose più meravigliose che gli uomini abbiano mai immaginato di fare con il legno. E Antonio Stradivari è stato probabilmente il più grande liutaio di tutti i tempi, una specie di semidio della liuteria per chiunque pratichi l'uso degli strumenti musicali o la loro costruzione. nessun violino dopo Stradivari ha raggiunto le stesse quasi soprannaturali caratteristiche. È il risultato finale, Stradivari, l'apice, potremmo dire, della cosiddetta scuola di Cremona, a sua volta senza alcun dubbio la più importante scuola liutistica del mondo, per innovazione e qualità degli strumenti, la cui fama è legata al suono celestiale delle sue produzioni. Cremona non è soltanto Stradivari. Altri liutai lavorarono in questa città e hanno avuto qui la bottega. Alcuni di questi sono veramente leggendari. Ad esempio Niccolò Amati, della famiglia Amati, che è considerato la vetta della liuteria seicentesca. Oppure Giuseppe Guarneri, detto del Gesù, e tanti altri. Ora avrete sentito probabilmente tante volte storie che riguardano l'impossibilità di ricreare il suono di questi strumenti. Ora, le tecniche di costruzione, i legni, le vernici, sono stati analizzati di tutti questi strumenti, almeno perlomeno di quelli che ci sono rimasti, col maggior dettaglio possibile, nei laboratori più attrezzati del mondo. Nonostante questo, nessuno è mai riuscito realmente a carpire il segreto di questi artisti. Che cos'era che rendeva questi strumenti in grado di suonare in questa maniera celestiale? Provate a fare suonare a un buon violinista uno strumento moderno, costruito con la cura più maniacale, e poi, dopo, dategli in mano uno Stradivari. Il suo suono diventerà più pieno, più potente, le note più distinte, i bassi e gli alti usciranno dall'archetto con la stessa straordinaria chiarezza espressiva. Chi ha suonato uno Stradivari sa che da quel momento in poi qualunque altro strumento proverà, non proverà mai più la stessa sensazione. Non credete a chi vi dice che nei test al buio alcuni musicisti hanno preferito il suono di un altro violino e non sono stati in grado di riconoscere uno Stradivari. Non è vero. Sono musicisti disattenti, non sono bravi musicisti. Qualunque grande violinista immediatamente sarà in grado di distinguere uno Stradivari da qualunque altro strumento. Ora, sono tanti gli Stradivari che sono sopravvissuti, ma soltanto pochi sono integri, moltissimi sono stati profondamente modificati nel corso degli anni, e il fatto che riportino ancora il fatidico cartiglio Antonius Stradivarius Cremonensis facebat, con l'indicazione dell'anno, è l'unica indicazione di uno strumento che in realtà non esiste più. È stato modificato così tanto nel corso dei secoli che dell'originale strumento costruito da Stradivari è rimasto ben poco. C'è un periodo in cui gli strumenti fabbricati da Stradivari raggiunsero il loro apice. È il periodo che va dal 1700 al 1725. La qualità di questi strumenti è realmente irraggiungibile. Sono così famosi e carichi di storia da essere conosciuti ognuno di loro per nome. Così abbiamo il violino conosciuto come il Messia, o il Lady Blunt, o ancora il violoncello Duport, dal nome del musicista Jean-Pierre Duport, che reca un'ammaccatura sulla cassa che la leggenda vuole sia stata causata accidentalmente dagli stivali di Napoleone. E poi ancora il Cremonese, il Vesuvio, il Marchat Berthier, la viola MacDonald. Sono tutti strumenti che alla loro straordinaria qualità associano il fascino delle vicissitudini storiche attraverso le quali sono passate per raggiungere i nostri giorni. Il Gesù, autore del famoso cannone, il violino di Niccolò Paganini, arrivò a produrre strumenti dotati della stessa forza e fascino. Ma da cosa dipende questa magia? La risposta a questa domanda ha impegnato generazioni di musicisti, liutai, scienziati, esperti dei legni e dei materiali. Ognuno convinto di aver trovato finalmente l'arcano in qualche dettaglio, le colle, le vernici, la stagionatura, il trattamento del legno. In realtà, nessuno è mai riuscito a capire davvero che cosa rendesse unici questi strumenti. A parte l'abete rosso. L'abete rosso è l'unica vera soluzione alla straordinaria qualità di questi strumenti. Non è che l'abete sia l'unico legno che i liutai utilizzano per costruire un violino. Si utilizza l'acero montano per il fondo e per le fasce. Si utilizza l'ebano per la tastiera, il palissandro e il bosso. Ma l'abete rosso è il cuore di tutto. Perché? È soltanto con l'abete rosso che si può fare una tavola armonica degna di Stradivari. Dalla qualità del legno della tavola armonica dipende in gran parte la qualità dello strumento. E una buona tavola armonica non si può fare altro che con l'abete rosso. Non soltanto serve l'abete rosso giusto, serve anche un abete rosso che sia in grado di produrre il cosiddetto legno di risonanza. Questo non cresce dappertutto, soltanto in pochi selezionatissimi boschi. Stradivari, ad esempio, utilizzava per il legno della tavola armonica soltanto il legno di risonanza prodotto dagli abeti rossi del bosco di Paneveggio in Trentino. Ma che cos'è che rende l'abete rosso, l'abete perfetto, l'albero perfetto per la creazione di tavole armoniche? Innanzitutto la perfetta conduzione del suono, secondo quanto dicono i liutai, dovuta ai suoi minuscoli canali resiniferi che corrono per l'intera lunghezza del tronco e che con la stagionatura rimangono cavi, permettendo all'aria di vibrare al loro interno come delle microscopiche canne d'organo. La cristallizzazione della resina sulle pareti di questi canali, che avviene solo durante una lunga stagionatura naturale, è fondamentale per migliorare ulteriormente le capacità di trasporto del suono. Ora, per avere un buon legno di risonanza, bisogna che gli alberi rispondano a una serie strettissima di requisiti. Primo, devono avere un diametro di almeno 60 cm, una dimensione non semplice che si raggiunge in genere intorno ai 150-200 anni. Non basta. Perché ci sia la giusta densità del legno, necessaria per il trasporto del suono, sia per resistere anche alle straordinarie sollecitazioni meccaniche cui è sottoposta una tavola armonica di violino, che ricordiamolo è soltanto spessa pochi millimetri, per rispondere a questi requisiti gli alberi devono crescere ad altezze notevoli, meglio su versanti esposti a nord e su terreni poveri. La crescita della pianta quindi deve essere lenta e regolare. Il tronco non deve avere torsioni, né tantomeno nodi o altre alterazioni, e deve essere tagliato durante il riposo vegetativo, quando gli zuccheri nella pianta sono stati trasformati in amido e il legno è più resistente. Infine, il taglio deve essere effettuato di quarto, ossia in spicchi e non in tavole. E quindi si capisce il perché soltanto pochissimi alberi sono adatti a fare delle tavole armoniche di grande pregio. Durante la crescita delle piante, il clima è fondamentale. Le piante di abete devono crescere in un ambiente che sia allo stesso tempo costante negli anni, ma non troppo favorevole alla crescita. Infatti, gli anelli di accrescimento annuali devono essere quanto più regolari possibili. Uno dei segreti della grande liuteria del Settecento sembrerebbe proprio risiedere nella crescita particolarmente lenta cui furono soggetti gli alberi di abete a causa di quella che oggi noi conosciamo come la piccola era glaciale, cioè un periodo particolarmente freddo che interessò l'Europa fra il XV e la metà del XIX secolo, che ebbe le sue temperature più rigide in un periodo che va fra il 600 e il 700, dovuta a una ridotta attività solare, sembra. In questo periodo gli anelli di accrescimento degli alberi cresciuti in Europa sono molto addossati gli uni agli altri, sono estremamente ravvicinati. La piccola era glaciale, quindi, potrebbe essere uno dei tanti fattori della qualità degli Stradivari. Se questo fosse vero, sarà sempre più difficile in futuro trovare del legno con queste straordinarie caratteristiche. Il riscaldamento globale, infatti, da un lato provoca le tempeste che schiantano i boschi dai quali si ottiene il buon legno di risonanza, dall'altra modifica per sempre le caratteristiche di crescita della pianta. Qualche anno fa io ebbi la fortuna di poter esaminare da vicino alcuni di questi eccezionali strumenti musicali, recandomi presso uno dei santuari della liuteria mondiale, il Museo del Violino di Cremona. L'opportunità che ci era stata offerta era unica. Potevamo studiare alcuni fra i violini, le viole e i violoncelli costruiti dai maestri quali Amati, Stradivari, Guarneri del Gesù, al fine di analizzare la produzione di sostanze volatili prodotte dal legno di questi strumenti. Avevamo delle ipotesi su cosa potesse accadere al legno di manufatti così particolari durante il loro lunghissimo invecchiamento, ma per verificarle dovevamo poter accedere a questi strumenti antichi. Per cui un lunedì, lo ricordo ancora, nella giornata di chiusura al pubblico del museo, potemmo analizzare alcune delle meraviglie della liuteria di tutti i tempi. Lavorare con questi strumenti non è affatto facile. Intanto il numero delle precauzioni e limitazioni è pressoché infinito. Fra queste c'è ovviamente l'assoluta impossibilità di esportare alcuna seppur microscopica parte dello strumento. Gli strumenti sono intangibili. Ecco perché il nostro studio si basava esclusivamente sull'analisi delle sostanze volatili emesse dal legno naturalmente. Ora, anche se a dirlo sembra semplice, la realizzazione degli esperimenti richiese settimane di preparazione. Portammo a Cremona tutto ciò che era necessario per allestire il laboratorio all'interno della stanza che ci era stata assegnata all'interno del museo. Per far entrare le nostre sonde all'interno delle casse armoniche, l'idea era di utilizzare le aperture presenti sulle tavole armoniche, le cosiddette F degli strumenti. L'unico altro passaggio, infatti, per arrivare all'interno del violino, oltre alle F, era l'attacco del bottone sul fondo. Chiudendo tutte le aperture per tempi controllati, avevamo modo di sapere quante molecole nell'unità di tempo erano prodotte dal legno del violino. Entrare all'interno della cassa era necessario in quanto è la sola faccia interna del legno a non essere coperta dalle vernici o dalle lacche che impediscono qualunque misura. Arrivammo a Cremona 2 giorni prima della data fatidica. Preparammo il laboratorio e ricordo benissimo la prima visita guidati dalla direttrice. Dovunque mi girassi, meravigliosi strumenti musicali di epoche diverse, dall'origine del violino fino ai nostri giorni, si trovavano intorno a me. Poi arrivammo nel cuore del museo, nella famosa sala 5, che è conosciuta normalmente come lo scrigno dei tesori. E il nome rende solo parzialmente l'idea di ciò che vi è contenuto. È come entrare nel Sancta Sanctorum della liuteria di tutti i tempi. In magnifica esposizione, ognuno nella sua teca di cristallo, ci sono 9 capolavori che sono sottoposti all'adorazione dei musicisti del pianeta. Ricordo la direttrice indicarceli uno a uno con la familiarità e l'affetto che si ha per i propri figli più amati. In questa sala troviamo alcuni capolavori della famiglia Amati, uno per ognuno dei suoi membri più illustri. Qui davanti a noi il Carlo IX di Andrea Amati, costruito dal capostipite della famiglia intorno al 1566, accanto la viola Stauffer del 1615, opera di Girolamo Amati, e infine lo splendido violino Hammerle del 1658, del figlio di Girolamo, Niccolo Amati. E poi davanti a noi i 3 Stradivari del museo, il Clisby, il Cremonese e il Vesuvius. Il violino Quarestami di Giuseppe Giovanni Battista Guarneri e poi di nuovo lo Stauffer di Bartolomeo Giuseppe Guarneri del Gesù. Insomma, una stanza in cui i più grandi capolavori della liuteria convivevano uno accanto all'altro. Il giorno dopo avrei avuto modo di poter lavorare su questi strumenti. Arrivai in museo molto presto. All'alba ero già pronto nel laboratorio, in attesa che arrivassero gli addetti per portarmi uno a uno questi strumenti su cui lavorare. Il primo ad arrivare, noblesse oblige, fu il Carlo IX di Andrea Amati. Lo toccai con riverenza, come si può maneggiare qualche cosa di sacro. Pensate, quel violino è del 1566, suona da 450 anni, è stato creato da Andrea Amati per il re di Francia, Carlo IX di Valois, il figlio di Caterina dei Medici, il re della Notte di San Bartolomeo, della congiura di Amboise, dei Guisa, il principe di Condé. Insomma, lo sfortunato Carlo IX, per ricordarmi che faccia avesse, mi ero andato a guardare i ritratti dipinti da François Clouet. Carlo IX, undicenne, all'età in cui divenne re di Francia. Poi nel 1572, a 22 anni, due anni prima di morire, di tubercolosi a soli 24 anni. Nei due ritratti, nonostante in uno fosse un bambino e nell'altro un uomo adulto, si vedeva la stessa aria malinconica e seria. Le cronache raccontano che Carlo IX avesse una passione per la musica e forse per questo pensavo, per farlo sorridere, che Caterina, sua madre, nel 1565 decise di acquistare 38 strumenti, 12 violini piccoli, 12 violini grandi, 6 tenori e 8 bassi, e siccome erano destinati a un re, non poté che rivolgersi al migliore di tutti, ad Andrea Amati. Di questi strumenti non è rimasto praticamente nessuno, tranne quello che si trovava ora davanti al me. Era magnifico. Sulle fasce le decorazioni in foglia d'oro con il motto di Carlo IX, Pietate et Justitia. Sul fondo lo stemma del re di Francia, al centro appunto delle figure della pietà e della giustizia. Ma a prescindere dalla ricchezza delle decorazioni, era lo strumento, nell'eleganza, nelle proporzioni che colpiva. E soprattutto il fatto che avesse prodotto musica celestiale per quasi mezzo violino. Poggiati sul velluto rosso che avevamo preparato, quel giorno passò davanti a noi l'intera storia degli strumenti ad arco. In rapida successione avemmo la possibilità di analizzare, oltre al Carlo IX, l'intero contenuto dello scrigno dei tesori, il Clisby, il Cremonese, il Vesuvio, lo Stauffer, il Quarestani e tantissimi altri strumenti meravigliosi passarono davanti a noi, ognuno con la sua sequenza di persone che li avevano posseduti per brevi momenti, di musicisti leggendari che li avevano suonati, di danni, di guerre, di furti, di ritrovamenti miracolosi, di piccole avventure e di grande storia. Per un giorno intero quegli strumenti sono stati davanti a me e in un certo senso a me sembrava di partecipare alle loro straordinarie avventure. A prescindere da qualunque dato scientifico ottenuto, non potevo sperare in un risultato migliore. Ora, se vi aspettate delle rivelazioni sensazionali sul loro mistero, beh, sappiate che alla fine l'unico segreto nella costruzione di quei gioielli sta nella qualità della materia prima. Ossia nella scelta del legno, in un certo senso l'arte del liutaio, sta nella scelta dell'albero giusto. È una scelta incredibilmente difficile, che richiede una lunga esperienza, un occhio allenato, l'intuito del genio e anche una bella dose di fortuna. Così, quando se ne trova uno che possiede tutte le caratteristiche ricercate, può accadere che sia utilizzato negli anni da diversi liutai, come sappiamo essere accaduto, ad esempio, a un abete rosso, dal cui legno sono stati prodotti almeno 3 violini. Uno nel 1744 da Giuseppe Guarneri del Gesù a Cremona, uno nel 1746 da Sanctus Serafin a Venezia e infine un ultimo nel 1767 da José Contreras a Madrid, un caso non così raro come potrebbe sembrare a prima vista. Da uno studio su 13 violini e viole realizzati da Andrea Amati, sappiamo che 5 provenivano dallo stesso albero. E il record, ancora una volta, appartiene al più grande di tutti, ad Antonio Stradivari, il quale fra il 1695 e il 1705 costruì almeno 14 tra viole e violini utilizzando il legno dello stesso albero di abete rosso. Questi strumenti sono chiamati fratelli di legno. Sono strumenti che condividono il legno dello stesso albero. Alcune volte i padri liutai di questi fratelli sono differenti. Molto più spesso sono gli stessi. Quando un maestro liutaio trova un albero che possiede in massimo grado tutte le caratteristiche richieste, lo custodisce gelosamente e si guarda bene dal condividerlo con altri. Il legno di abete rosso, insomma, con la sua struttura omogenea e compatta, i suoi anelli di accrescimento regolari, è la materia fondamentale con la quale nei secoli si sono prodotti capolavori inarrivabili. In un certo senso, un grande violino è figlio dell'ambiente in cui è stato costruito, tanto quanto lo è dell'arte di colui che lo ha costruito. L'anatomia degli alberi da cui deriva il legno con il quale il violino è realizzato è una conseguenza del clima. Senza quel clima e quegli alberi non si possono ricreare gli Stradivari. E questo l'unico segreto. A ben guardare, infine, anche i grandi violini sono rimasti vittime del riscaldamento globale. Oggi vi racconterò la storia dell'albero più musicale. Thank you. E quindi avete sentito appunto Stefano Mancuso che vi ha raccontato una grande, bella e lunga storia riguardo appunto a l'abete, anzi il legno di risonanza proveniente dall'abete rosso. Ma cosa ha fatto oltre a sicuramente cullarvi con tutti i suoi racconti? Vi ha anche introdotto a quello di cui vorrei parlarvi adesso. Allora, mi rendo conto che è estremamente tardi, quindi forse ho un po' gestito male i tempi, ma sicuramente gli intoppi tecnici di prima non hanno di certo per niente aiutato. Dunque, quindi forse andrò un po' più veloce, forse non riuscirò a leggervi, a parlarvi tutto quello che volevo, ma questo, come sapete, non ha importanza, tanto io ogni lunedì alle 19 sono qui con voi e quindi potremo eventualmente riprendere successivamente questi argomenti. Faccio solo un ultimo inciso prima di ripartire. Avevo promesso a alcune ascoltatrici e ascoltatori che settimana scorsa ci sarebbe stata una puntata molto bella e importante, il cui tema, ormai mi tocca spoilerarlo, è l'intelligenza in senso ampio. Quindi parleremo di intelligenza umana, ma chissà, forse anche di altro tipo. A causa di esigenze di salute, influenze, raffreddori vari, non siamo potuti andare in onda, ma ci sentirete settimana prossima. Ci sentirete a me e le altre mie personalità, non sto scherzando, a me e altre amiche e amici che mi aiutano in questa grande impresa. Sono molto contenta. Dunque, vado avanti allora e vi parlo di quello di cui Mancuso già vi ha un po' raccontato, ovvero della tempesta Vaia. Viene erroneamente chiamata tempesta perché in realtà è stato un uragano e la differenza è in una scala di intensità fondamentalmente. La tempesta è meno forte, l'uragano è molto più forte e si tende a dire tempesta perché da noi nel Mediterraneo è veramente, veramente raro avere degli uragani, proprio perché il Mediterraneo è un mare, sì, appunto un mare praticamente chiuso e perciò è molto più stabile, a differenza magari degli oceani. Invece successe proprio un uragano. Ci fu inizialmente due giorni e mezzo di pioggia molto forte. Per fortuna tutto ciò nel 2018, scusate. Era stata data un'allerta meteo molto importante, perciò per fortuna molte persone erano in casa e quindi appunto non ci sono stati, credo, morti, non che io sappia. Comunque, quindi c'è stata inizialmente tanta pioggia e poi quello che è stato il grosso vero danno è stato un vento caldo molto molto forte, appunto, che è arrivato ai picchi di 217 km orari, quindi veramente una potenza a dir poco sconvolgente. Tutto ciò è avvenuto, come vi dicevo, nel 2018 al nord Italia, sulle foreste alpine, in particolare ha toccato varie regioni, quindi Trentino, Veneto, Friuli, Lombardia e in realtà diciamo si è allungato con meno danni, ma si è allungato anche a altri stati proprio, quindi limitrofi al nostro. I danni sono stati gravissimi, sono stati abbattuti tantissimi alberi e questo in particolare, diciamo, il danno di abbattimento di un albero da parte del vento, specificatamente del vento, si chiama schianto da vento. È un po' un gergo tecnico e appunto, come dicevo, i danni sono stati enormi. Sono stati abbattuti 12 milioni di metri cubi di legname. Ora mi piace anche far notare, come nel podcast avete appena sentito, appunto si tende a misurare il tutto in metri cubi quando invece il valore di un albero è molto più di quello, ma vabbè, passiamo avanti. Comunque, ecco, era per capire l'entità del danno. Un altro modo per capirlo è che sono state buttate giù 5 volte tanto gli alberi che si tagliavano ogni anno in quelle foreste per appunto la risorsa del legno, come si diceva. Quindi veramente un impatto importante, veramente, veramente importante. Questo è potuto succedere per una serie di condizioni climatiche, ambientali particolari. E a proposito di questo, vi voglio far sentire la voce di uno studioso, Giorgio Vacchiano, che è una voce molto autorevole del mondo forestale italiano, e che vi spiega proprio come è stato possibile, quali condizioni appunto meteo ambientali si sono verificate affinché appunto arrivasse un uragano di tale intensità. Si tratta si tratta quindi di fenomeni appunto legati alla temperatura dei venti, alla direzione dei venti e a come questi si sono, ecco, tutti mischiati insieme per creare appunto questa grande tempesta. Ve lo spiega appunto meglio la voce di Giorgio Vacchiano. Forse. Ecco. Baia è stato un ciclone extratropicale, cioè una grande area meteorologica caratterizzata da bassa pressione. Le depressioni come Baia sono causate dall'incontro tra una massa d'aria fredda, di provenienza polare, e una massa d'aria calda che viene da sud. I due fronti sono spinti l'uno incontro all'altro dalla corrente a getto, il grande nastro trasportatore d'aria che scorre a tutta velocità appena sotto la stratosfera e che perturba l'equilibrio meteorologico, da cui il nome perturbazione. A causa delle differenze di temperatura si forma un forte vento, mentre l'aria fredda, più densa, si incunea sotto l'aria calda, sollevandola e facendo condensare il vapore acqueo che poi cade a terra sotto forma di pioggia. Di per sé sono fenomeni quotidiani che insieme agli anticicloni caratterizzano il tempo meteorologico su gran parte della Terra. Diversi eventi però hanno contribuito a rendere Baia una perturbazione straordinaria e ci si chiede se e come questi eventi siano stati rafforzati dal cambiamento climatico causato dall'uomo. Esistono almeno tre indizi importanti. Sappiamo innanzitutto che il cambiamento climatico modifica la traiettoria della corrente a getto, portandola a formare dei grandi meandri verso sud, che si spingono più spesso alle nostre latitudini. Aumenta quindi la probabilità di ingresso di aria fredda, quella che innesca la formazione del ciclone. Abbiamo chiaro anche che in quel periodo il Mar Mediterraneo era molto più caldo del normale, fino a 3 gradi in più, come risultato di ripetute ondate di calore estive. Un mare caldo riscalda l'aria che lo ricopre, aumentando le differenze di temperatura con il fronte freddo e, di conseguenza, l'intensità del vento. E infine, sappiamo che per ogni grado in più di temperatura l'atmosfera può contenere il 7% in più di vapore acqueo. Quando questo vapore si condensa, durante la genesi del ciclone, questo può aumentare l'intensità di pioggia. 3 indizi solidi che ci fanno pensare che molto probabilmente Baia sia in effetti strettamente collegata alla crisi climatica in atto. Baia è stato un ciclone. Ecco, quindi queste erano un po' una panoramica appunto climatica per capire come mai siamo arrivati a un uragano appunto di questo, una tempesta di queste dimensioni. Quindi, come vi dicevo, i danni sono stati enormi, sono stati veramente importanti, danni chiaramente dal punto di vista ecologico, perché appunto un sacco di ettari di bosco sono stati rasi al suolo di fatto. Ovviamente anche un danno a livello economico di tutto il sostentamento, soprattutto dell'economia, ecco, alpina italiana, perché appunto era anche una risorsa economica tutto l'abete ovviamente da tagliare. Un impatto anche culturale, diciamo, d'immaginario, ecco, tra la popolazione importante, perché le immagini proprio ovviamente si trovano da internet, se le andate a vedere sono veramente impressionanti, cioè queste enormi crinali, queste enormi montagne che a un certo punto sono vuote, sono appiattite, non c'è più il volume e il verde dell'albero, ma diventa tutto un Ecco, un'immagine che rende bene sono i bastoncini del gioco Shanghai, tutti per appunto gli stecchini uno sopra l'altro accatastati. Ecco, più o meno questa era la visione, la visuale, scusate, in quel momento. Allora, i danni non sono stati soltanto, diciamo, puntuali nel tempo, ma si stanno ripercuotendo tutt'oggi, perché si tratta di un insetto che si chiama il bostrico, per cui è un insetto che di base sarebbe avrebbe funzione di regolatore, poiché mangia il legno soprattutto di piante stressate, di piante affaticate per qualche ragione, che stanno o stanno per morire o comunque hanno dei problemi, non stanno benissimo, e questo insetto si mangia specificatamente quel legno lì. Proprio per questo viene definito regolatore, perché è una di quelle funzioni, la regolazione, funzioni ecosistemiche, che serve a appunto riequilibrare un po' tutto il sistema. Se non ci fossero appunto esseri viventi che si mangiano la materia organica morta, sarebbe un grosso problema, cioè sarebbe tutto un cimitero. E invece ci sono insetti, funghi, batteri e quant'altro che appunto regolano da questo punto di vista. Quindi il bostrico, questo insetto in questione, è endemico in Italia, quindi c'è sempre stato, non aveva mai dato noia a nessuno, fino a che c'è stato appunto l'uragano Vaia. Questo perché da quel momento in poi l'insetto si è trovato appunto in un grande banchetto, perché c'era un sacco di legno o morto, e gli va bene anche il legno morto, non è che gli fa schifo, o di legno molto stressato, di piante molto stressate da andare a colonizzare e a mangiare. Quindi a seguito di Vaia si sta ancora espandendo questa grande piaga del bostrico, che sta di fatto un po' distruggendo il patrimonio delle peccete italiane. Ci tengo a dire, è ovviamente molto doveroso far notare, che questo succede anche perché in Italia ci sono un sacco di appunto peccete, ovvero monoculture di abete rosso, di peccio. Come ormai è provato e riprovato da numerosi studi, un sistema biologico è molto resiliente quando la biodiversità è molto alta. Quindi più si diminuisce la biodiversità, quindi si rende tutto monospecifico, e meno il sistema è forte, il sistema inteso come ecosistema, e perciò una qualsiasi malattia, problema, condizione climatica anche avversa può creare dei danni considerevoli. Oltre a questo c'è anche il fatto che, come dicevo all'inizio puntata, anche in questo frangente il riscaldamento globale non aiuta, perché il bostrico è molto favorito dal caldo. Infatti in condizioni, diciamo, di annate normali riuscirebbe a fare un unico ciclo vegetativo, invece quando è molto caldo riesce a farne due o a volte anche di più. Allora, di tutto questo però richiamo il signor Giorgio Vacchiano, no, che non è ovviamente al telefono con me, ma è un'intervista fatta a lui che ho rubacchiato a giro, e che vi parla forse meglio di me di questa cosa. Le larve del bostrico si nutrono dei tessuti legnosi che si trovano sotto la corteccia dell'abete rosso. Dato che questa parte dell'albero contiene i vasi conduttori che trasportano la linfa, essenziale per il nutrimento e la vita della pianta, questa azione può essere molto dannosa e portare gli alberi attaccati a morire in breve tempo. L'attacco funziona così. Dopo aver passato l'inverno nei detriti organici nel suolo, a primavera i bostrici maschi scelgono un albero tra quelli più deboli del bosco. E come lo fanno? Pare che sia grazie a una sostanza chimica che ha proprietà repellenti, il trans-4-tuianolo. La quantità di questa sostanza è molto meno abbondante in abeti vecchi o indeboliti, rendendoli così più facilmente attaccabili. Inoltre il bostrico vive in simbiosi con i funghi responsabili dell'azzurramento del legno, che come lui si nutrono delle cellule dei vasi conduttori di linfa nelle piante deboli. L'azione del fungo sul legno facilita lo scavo delle gallerie da parte delle larve del bostrico, mentre gli insetti adulti trasportano i funghi durante il loro volo. Questa collaborazione è così sviluppata che al momento dell'attacco i funghi inducono l'albero colpito addirittura a produrre sostanze che attraggono il bostrico. E dopo aver scelto la pianta, i maschi forano la corteccia e scavano una camera nuziale al di sotto di essa. Da qui emettono sostanze chimiche di richiamo, i feromoni, che attirano fino a 4 femmine. Una volta arrivate, queste scavano gallerie che si dipartono dalla camera, in ciascuna delle quali vengono deposte 50 uova. Le larve nascono e iniziano a nutrirsi di legno, scavando a loro volta ulteriori gallerie che si diramano da quelle di partenza e formano un disegno caratteristico che dà al bostrico il suo secondo nome di tipografo. Se la stagione di crescita è abbastanza lunga, questo meccanismo può ripetersi 2 e più raramente anche 3 volte. Si parla quindi di doppia o addirittura tripla generazione. Quindi questo era un po' per capire, appunto vi ha dato anche altre informazioni utili, quindi il fatto che c'è questa simbiosi importante col fungo è un fattore a dir poco appunto decisivo. Infatti in generale le collaborazioni in natura sono molto potenti, molto più spesso delle competizioni, quindi questo tra l'altro appunto è un modo secondo me un po' sbagliato di vedere gli ecosistemi, cioè un insieme di competizioni, quando invece è più, molto di più l'insieme di simbiosi, aiuti e reciproci eccetera, più che competizione basta. Allora vi mando uno stacco musicale e poi purtroppo mi tocca interrompere e arrivare alla conclusione di questa puntata. Avrei avuto altre cose da leggervi, ve le accenno così giusto per farvi rodere forse più che altro. Allora avevo un articolo interessante da leggervi riguardo alla tempesta Lothar. La tempesta Lothar era avvenuta nel 99 in Svizzera e l'articolo parla di come la Svizzera, cioè di come quelle foreste colpite dalla tempesta oggi invece si presentano. Quindi vabbè, la Svizzera poi ha un patrimonio boschivo veramente ampio, perciò forse sono anche molto abituati a lavorarci, non so di preciso. Fatto sta che gli interventi che hanno fatto stanno funzionando, in particolare ripopolamenti misti, non solo con appunto non monospecifici ma misti, e in particolare hanno visto che è molto comodo non, in alcuni casi non asportare i ceppi abbattuti ma lasciarli in loco per varie ragioni, una ecosistemica e si torna sempre lì, per far sviluppare una fauna e una flora che riesca a appunto rinnovare tutto l'ecosistema, e poi anche perché nelle condizioni di grossa pendenza le ceppe appunto estirpate dal suolo e i tronchi hanno impedito la formazione di valanghe, di frane, che invece poteva essere un rischio molto grosso in quella condizione. Dice anche altre cose, ma vabbè, ve la butto un po' lì, questa era un po' la sintesi. Io direi quindi che vi mando quest'ultimo pezzo, rimango sempre su una compilation un po' balcanica per questa, diciamo, metà puntata è andata un po' così. Questo è Emir Kusturica and the No Smoking Orchestra, Grass Got Trauer la canzone. Come sapete, tanto nella pagina del podcast sul sito vi metto tutti i brani che ho passato, quindi ritroverete i titoli anche lì. Io non mi resta che augurarvi un buon ascolto del nostro palinsesto wombattiano che parola ostica. Davvero rimanete connesse sulle nostre frequenze, radiowombat.net per ascoltarci in streaming oppure 13:59 AM. Io vi saluto, ci risentiamo lunedì prossimo alle 19, sempre qui su Radio Wombat, sempre qui su Nervature con me, Addu. Buona serata. Leben ist romanzevoll, immer gleich, es wild um acht. Bayerische Motorwerke in bayerischer Nacht. Kellner, bitte ein Schnaps und zwei Bier noch einmal. Kellner, bitte eine Großes im Ausländerspaal. Traure nennen Leute mich, von los bin jetzt ich. Mich hat kalte Nacht gebracht, auf Schnee viel vor der Weihnacht. Kellner, bitte ein Schnaps und zwei Bier noch einmal. Kellner, bitte eine Großes im Ausländerspaal. Kellner, bitte eine Großes im Ausländerball.